Effetto Mondo. I was glad to see the Minnesota or the Minneapolis Police Department took quick action and removed the officers involved from their positions. But this is not the end of the story as we seek justice for George Floyd. Buongiorno Giulia, ciao. Buongiorno. Allora, sì, cosa ci introduce questa, sì, no, questa voce? Approfitto, insomma, ieri dicevo Minneapolis, Louisiana, non so perché mi era venuto in mente, perché ovviamente Minneapolis è in Minnesota, sì. È la capitale dello stato del Minnesota, che è anche in una zona molto diversa dagli Stati Uniti rispetto alla Louisiana, però insomma mi dà appunto l'occasione per precisare che il fatto di cui abbiamo parlato ieri sta avendo delle conseguenze, come prevedibile, molto gravi. Le parole che abbiamo sentito erano quelle del governatore del Minnesota, che ha commentato l'uccisione di questa persona che era stata fermata dalla polizia perché stava cercando di pagare. Negli Stati Uniti è abbastanza ancora frequente pagare con degli assegni anche per piccoli importi. Il commesso del negozio si era insospettito, pareva insomma magari un conto scoperto, aveva chiamato la polizia, reazione spropositata di quattro poliziotti, e l'uomo da fermato è morto sotto gli occhi di una telecamera, tra l'altro mentre chiedeva, e tutti questi video sono stati visti da milioni di americani, chiedeva: lasciatemi respirare, non respiro più, togliete il ginocchio, liberatemi. E i quattro poliziotti, l'abbiamo già detto ieri, sono stati licenziati, ma il tema dei giornali oggi non è solo quello dell'ennesimo episodio di violenza di poliziotti bianchi verso sospetti afroamericani, ma anche che ieri Minneapolis si è infiammata, ci sono stati disordini, saccheggi dei negozi, leader delle comunità anche religiose legate alle comunità afroamericane e non solo, anche a quelle che il governatore ha definito brown communities, quindi anche i latinos, che si sentono comunque sempre in una posizione di debolezza, e quindi adesso il governatore deve cercare di arginare queste reazioni violente. E naturalmente ne parlano tutti i giornali, perché si ripresenta questo tema dell'eccesso di violenza della polizia, che poi porta, abbiamo in passato, ricorderete forse il Los Angeles messa a ferro e fuoco dopo l'omicidio di Rodney King. Certo. Insomma, possono degenerare, ecco, questi episodi. Giulia, i giornali che noi leggiamo, quelli internazionali, con te ogni giorno, sono anche un fatto estetico, come tutto, no? Mi dici perché ti è piaciuta molto la prima pagina del Washington Post? Sì, sai, ultimamente insomma il giornalismo di carta, che ha bisogno, lo sappiamo, di reinventarsi, ha puntato molto sulle cosiddette infografiche, o comunque sulle riforme grafiche. La prima pagina del New York Times di domenica ha fatto il giro del mondo perché era completamente priva di pubblicità, tutta in bianco e nero, come fosse un giornale di tanti anni fa, ed era soltanto i nomi di alcuni dei, in quel momento, meno di 100.000 morti americani, con dei brevissimi profili, quasi degli haiku, che descrivevano queste vite perdute. La soluzione del Washington Post di oggi mi ha colpito ancora di più. A fianco della parte centrale ci sono quattro piccoli articoli, uno dei quali è su Minneapolis, ma al centro c'è questa mappa che sembra fatta di fasci di luce degli Stati Uniti. I fasci di luce più intensi si levano dagli stati che hanno avuto il maggior numero di morti, quindi soprattutto Massachusetts, New Jersey e lo stato di New York, e in alto compare la scritta 100.000. Perché è stata superata questa soglia, poi naturalmente sappiamo che in realtà probabilmente sarebbero di più, però intanto i morti ufficiali sono più di 100.000, e questo si lega anche naturalmente alle reazioni della Casa Bianca, che, se vuoi sentiamo le parole di Trump, continua ad avere un atteggiamento, Biden l'ha definito da sciocco macio, però sul tema della protezione delle mascherine, se vuoi sentiamo, sì, Trump, dai, che sentiamo litiga con un giornalista. Il nostro Trump quotidiano. I couldn't hear you. Can you take it off, because I cannot hear I'll, you? I'll just speak louder, sir. Oh, okay, because you want to be politically correct. Go ahead. No, sir, I just want to wear the mask. Che succede, Giulia? Donald Trump chiede al giornalista di ripetere la domanda, perché di abbassare la mascherina perché non ha sentito la domanda. Il giornalista risponde: alzerò il tono della voce perché non voglio abbassare la mascherina, e Trump con un tono di chiaro scherno, dice: "Ah, lei vuole essere politically correct, ok?" E il giornalista risponde: "No, sir, vorrei soltanto indossare la mia mascherina." Quindi, Cioè, non ci si annoia alle conferenze stampa qui in America, no, almeno questo. guarda, io suggerisco agli ascoltatori, perché sembra che noi siamo magari fissati, ci sono su YouTube delle compilation di questi scambi che lui ha con i giornalisti, sono alcuni, è chiaro che poi portano a parodie come quelle che una volta abbiamo sentito, perché sono veramente da quasi appunto dei piccoli spettacoli. Poi a volte sulla sostanza Trump ha anche ragione, però si lascia andare anche a questi eccessi verbali che poi naturalmente sono facilmente attaccabili dai suoi avversari. C'è però un'interessante analisi sul New York Times, perché forse sta succedendo un pochino anche da noi, e sicuramente succede per esempio in Brasile: mettere o non mettere la mascherina sta quasi diventando un atto politico, nel senso, non metto la mascherina perché sono d'accordo con Trump, è una precauzione, è una cosa politically correct, una cosa sciocca, una cosa da persone non mace, mace che non esiste questo plurale in spagnolo, ma non importa. E invece metto la mascherina, quindi sono di una posizione più vicina al Partito Democratico. È una follia, no? Ricorderete il direttore dell'OMS che diceva: "Non politicizziamo questo virus perché ci rende tutti più vulnerabili", e purtroppo sta un po' succedendo. Va bene, Giulia. Invece, venendo in Europa, mi sembra di capire che su diversi giornali, soprattutto tedeschi, si sottolinea, diciamo, l'importanza di questo piano della Commissione presentato da Ursula, von der Leyen. Sì, credo che soprattutto nelle analisi dei giornali, parliamo di giornali anche di centrodestra come la Welt, è chiara la razionalità di questo piano, cioè dare di più a chi ha bisogno e cercare di avere di più da chi ha di più. Tutti capiamo che è una grande rivoluzione, tutti sottolineano, siamo soltanto all'inizio, ci saranno i negoziati, però che la visione sia fondamentalmente diversa e che sia una visione che ha una sua logica, una sua razionalità, forse ha fatto effetto questo nome che hanno dato al piano, cioè guardando al futuro, Next Generation. Quindi l'idea che tutto questo sia fatto perché le prossime generazioni abbiano vantaggi da un'Unione Europea più forte. Forse è effettivamente passato anche il messaggio che nessun paese a questo punto, essendo tutti interdipendenti dal punto di vista commerciale, si salva se i partner diventano più deboli. E quindi anche se non aiutandoli direttamente, pensando ce la possiamo fare da soli, poi alla fine è un disastro per tutti, specie perché, e lo sottolinea Financial Times e tantissimi altri giornali, all'orizzonte si profila un nuovo capitolo della guerra commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti, con la questione Hong Kong per nulla risolta. Moltissimi quotidiani mettono in prima pagina le foto degli scontri di ieri a Hong Kong, con questo schieramento incredibile di polizia, e anche il tema dello status preferenziale che aveva la borsa di Hong Kong, dove sono quotate multinazionali di ogni paese, comprese alcune multinazionali italiane, e che potrebbe perdere appunto questo status perché gli Stati Uniti potrebbero toglierglielo. Ci sono, è vero, c'è la borsa di Shanghai, però naturalmente sarebbe uno scacco finanziario per Pechino. Quindi forse molti in Europa si sono resi conto che questo cambiamento di visione è importante, anche se certo ci saranno paesi, la Spagna naturalmente titola i quotidiani spagnoli sul fatto che saranno insieme all'Italia il paese che avrà più fondi, e quindi però mi sembra tutto sommato di non vedere reazioni così. Nemmeno ho guardato anche i giornali del Belgio, i giornali dell'Olanda, non ci sono reazioni scandalizzate o di grande paura. Temo un pochino di più dall'Austria, ma vedremo nei prossimi Abbiamo giorni. ancora pochi secondi, come te li vuoi giocare con l'ultima segnalazione, Giulia? Se vuoi il Regno Unito, dove Sì. per far capire come alla fine la BBC si autoregoli, c'è una famosa giornalista della BBC che ha espresso, lei era una anchorwoman, cioè come fosse la guida del telegiornale, e ha espresso un parere molto chiaro, personale, sulla vicenda Cummings, il consulente di Boris Johnson, che ha violato il lockdown, ed è stata sospesa perché i fatti devono essere separati dalle opinioni, e credo che sia insomma una grande lezione di giornalismo obiettivo che viene dalla BBC. Ecco, su questo è caduta la linea, ma insomma avevamo concluso. Grazie Giulia Crivelli, è tutto per la puntata di oggi. Noi ci risentiamo domani naturalmente con Valeria Bernardi in regia, oggi Luca Cremonese in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione. Ciao da Alessio Maurizi.